Montecitorio e dintorni di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, le voci che sentite di sottofondo sono quelle del transatlantico di Montecitorio, dove ieri sera la candidatura di Romano Prodi non è passata. Sappiamo che l'ex premier ha ricevuto 100 voti in meno di quelli previsti. Allora noi abbiamo sentito alcuni rappresentanti del Partito Democratico e di SEL. Onorevole Fassina, che è successo? È stato un congresso del PD invece che un voto per il Presidente della Repubblica? No, non credo sia questa la chiave di lettura. Credo che ci sia un problema con una parte del gruppo parlamentare che evidentemente nelle riunioni fa fatica ad esprimere una posizione e poi nel segreto dell'urna invece va avanti. Non sono i renziani, perché i renziani hanno detto, noi lo dicevamo, l'abbiamo detto quando non abbiamo votato Marini, ma allora chi sono? Non ho elementi per dirlo, credo che dobbiamo riflettere molto seriamente su questo voto perché è un voto grave. 1 su 5 non ha votato Romano Prodi, questa è la statistica. A questo punto il segretario potrebbe rimettere il suo mandato? Ma guardi, non stiamo facendo il congresso inizierà a breve. Non credo che sia la chiave di lettura di questo voto sia interna, relativa al gruppo dirigente del Partito Democratico, perché Bersani già ha detto che al prossimo congresso lui non sarà candidato, quindi non capirei chi utilizza questo voto per mandare un messaggio, perché il messaggio è già arrivato e il diretto interessato l'ha recepito. Credo ci siano altri problemi di orientamento di una parte dei nostri parlamentari, di cui dovremo discutere molto seriamente. Onorevole Sereni, che cosa è successo in questa votazione dove è stato bruciato Romano Prodi? È una votazione molto preoccupante, 100 voti in meno dai grandi elettori del centro-sinistra. Necessita subito una riflessione da parte dei gruppi, da parte del partito, perché certamente decideremo tutti insieme a Romano Prodi come proseguire. Ma onorevole Orlando, secondo lei è stato il gruppo di Renzi a fare questo sgambetto, a votare Rodotà magari? Non lo so, non faccio illazioni, ne ho lette di ogni genere oggi e penso che si debba ragionare guardando poi con calma i numeri, cercando di capire esattamente cosa è successo. Peraltro, quando manca numeri di questo genere, prima o poi si capisce, al di là del voto segreto. Onorevole Speranza. Abbiamo fatto una scelta condivisa di altissimo profilo come quella di una personalità come Romano Prodi. È evidente che il gruppo non ha retto rispetto a questa scelta e dobbiamo saper riflettere e ragionarne insieme. Nelle prossime ore convocheremo urgentemente i nostri gruppi riuniti per provare a capire assieme come se ne esce. Ma sì, Io penso che ci sia bisogno, nella maniera più assoluta, di capire che non stiamo scherzando. Stiamo per eleggere il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato, e ciascun parlamentare deve sentire su se stesso il peso enorme di questa responsabilità. Sì, sì. Onorevole Bressa, onorevole, che è successo? Sono mancati 100 voti. Sono mancati 100 voti, ma sono i vostri, non sono di Sinistra Ecologia e Libertà. No, Sinistra Ecologia e Libertà ha votato R. Prodi e corrisponde esattamente al numero dei loro grandi elettori, quindi è tutta una vicenda nata all'interno nostro. Ma quindi lei pensa che siano gli esponenti dell'area renziana? No, non ho la più pallida idea chi sia. Penso che siano degli irresponsabili a qualunque area appartengono. E praticamente è successo quello che il trappolone di Berlusconi alla fine ha funzionato. Non c'è stato nessuno trappolone di Berlusconi. Uno che decide di non votare per il Presidente della Repubblica è un atto di responsabilità anche quello. Quindi vuol dire che il PD non esiste più? No, il PD esiste e spero che nell'assemblea che si faccia adesso il segretario finalmente faccia imporre la linea. Onorevole Epifani, che è successo? Mancano tanti voti e quindi è evidente che adesso bisogna fare bene le valutazioni, perché sennò così si crea un problema enorme e non si riesce ad affrontare l'elezione in tempi rapidi del Presidente, è evidente. Ma è stato il trappolone di Berlusconi, voleva far venire fuori i franchi tiratori, c'è riuscito? Adesso bisogna fare bene i conti, è troppo presto adesso per dirlo, certo che mancano tanti voti. Ma che vuol dire praticamente? Che una parte del partito, perché? Bisognerà capire bene che cos'è, però è un partito troppo diviso, evidente, non è che ci vuole una sfera di cristallo. Bonifazi. Ha votato Prodi lei? Sì, ho votato Prodi. Qualcuno accusa Renziani? No, io ho votato Prodi. chi è che allora non l'ha votato? Se ero dentro l'urna sarei, forse ero in grado di dirlo, non lo so, credo che molti non l'abbiano votato, 100 su 500, insomma, è un segnale abbastanza chiaro. L'assemblea com'era andata? All'apparenza bene, direi all'apparenza a questo punto, perché sembrava una scelta all'unanimità fatta sulla base di un applauso condiviso da tutti. Dopo sembrava quasi un respiro di sollievo, diciamo così, dopo giorni di tensione, che però è stato... ci sbagliavamo. Onorevole Giachetti. Non faccio l'indovino, quindi siccome è voto segreto non posso sapere chi ha votato. È voto segreto, io che ne so chi ha votato no. 100 e passa persone non hanno votato Prodi. All'assemblea eravate tutti d'accordo. Però si vota segreto, quindi l'equivalenza è che tutti d'accordo, votando segreto ci sono 100 persone, a differenza di quello che abbiamo fatto noi l'altro giorno, che hanno detto che votavamo contro, che invece hanno votato, non hanno fatto quello che hanno detto in assemblea. Noi abbiamo giocato a viso scoperto, abbiamo detto subito che non eravamo d'accordo. Evidentemente qualcuno non ha ritenuto di fare la stessa cosa, tanto semplice. Forenziani avete votato fermamente? E chi noi abbiamo detto, quindi abbiamo detto che non votavamo Marini, non abbiamo votato Marini, abbiamo detto che votavamo Prodi, abbiamo votato Prodi. Non rivolgetevi a noi, rivolgetevi evidentemente a chi. Sì. Si pone un problema di leadership? Beh, insomma, si pone un problema di partito, mi pare, in queste condizioni, no? Allora, come ha votato Sell e come avete fatto in modo che si riconoscesse la scheda? Abbiamo scritto sulla scheda R. Prodi e nella lettura durante lo spoglio dei voti si è potuto sentire bene che 45 voti sono stati per R. Prodi, proprio perché temevamo, diciamo così, agguati, temevamo gli effetti di una fibrillazione o di una contesa intestina che è esplosa drammaticamente, che sta portando il Partito Democratico verso una deriva di disfacimento. Prodi è stato bocciato da 100 elettori del Partito Democratico nel segreto dell'urna, con un tasso di vigliaccheria che è una prova di cattiva politica. Senatore Nencini, ma allora che cosa è successo dentro il segreto dell'urna? Il PD va tradito e voi avete votato Romano Prodi? Noi votiamo sempre dichiarando prima per chi votiamo. I 100 voti mi pare che abbiano un padre, una madre, un indirizzo... Partito Democratico? Ma direi di sì, ma la cosa sconveniente è giocare sul Quirinale le sorti di un congresso interno. E adesso invece aspettiamo questa mattina cosa succederà con il quinto scrutinio e che cosa succederà anche nel Partito Democratico. Per quanto mi riguarda, una buona giornata da Elisabetta Fiorito.